fedeli scendono al convegno, Trione falmente in trocia, alta per aria susurra ai cori la parola d'ordine, Germania, Germania. Or sì che l'anima sussulta il santo nome di Germania. Si avvicina alla fatale fine che attende ogni tiranno. Tutti i popoli per lui e contro lui aprono le anime alla coscienza. O redenzione è il sogno bello che acqueta i cori, e il nostro è un supremo bacio fraterno. E la santa alleanza dal ricco l'oro e il povero dal sangue, dal re la sua parola e la sua fede. Colpevol ver. Schönbrunn. Lo vidi, era il mattino, forse il bel alba di compiuto dì. Vide compirsi il patrio destino, e come antico martire, quella splendida visione. agli eroi codor da scaglia. Il tuo nome e il tuo sangue, Federico, fu tocchi, ride, dunque ha parlato. Ascolta, io morirò.